Tensione evolutiva. Benvenuti e ben ritrovati a Tensione Evolutiva 3.0 presso Blu Radio Veneto. La trasmissione che va al nocciolo della soluzione per chi ha sangue nelle vene e non resta a compiangersi. Oggi trattiamo di allenamento, come fare per migliorare memoria e concentrazione. Io sono Giovanni Garavello e qui in studio con me c'è... Don Daniele Longato. Oggi parliamo di memoria e concentrazione con... Nicoletta Todesco, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, carissima. Chi sei, Nicoletta? Chi sono? Bella domanda. Beh, io sono quasi 20 anni, 19 anni e mezzo, che mi occupo di formazione, di corsi di memoria, apprendimento rapido, lettura veloce, non solo, anche comunicazione. Amo tantissimo la formazione perché dare la possibilità alle persone di capire, conoscere meglio le proprie risorse, penso sia un dono unico, veramente è una passione per me. Cosa fai, Nicoletta? Cioè, di cosa tratti nel pratico? Per noi che non capiamo nulla di memoria e di concentrazione. Nel pratico, dico subito questo, succede troppo spesso purtroppo di dire frasi del tipo non mi ricordo, ce l'ho sulla punta della lingua, ho l'attenzione altrove. Oppure io ricordo sempre che quando ero bambina mia mamma mi diceva sempre chi non ha testa ha gambe, perché scordavo di tutto, ero distratta. Io mi occupo proprio di questo, di insegnare alle persone delle strategie, delle tecniche per imparare ad imparare, per avere un'attenzione maggiore, perché uso una metafora, Giovanni, che mio padre non ama molto, però sì. Noi abbiamo un apprendimento perfetto, la nostra memoria è perfetta, solo che ci manca il libretto di istruzioni. Mio padre è il classico anziano veneto che il cellulare lo usa per inviare e ricevere le chiamate, certo. Messaggi non sa neanche come si fa, ma non perché sia impedito nel farlo, perché non gli interessa. Quindi figurati un computer, lui non lo sa neanche accendere perché non gli è mai interessato, non gli è mai servito, ha sempre avuto chi lo faceva per lui. Noi con la memoria siamo un po' come mio padre col computer, il computer ha potenzialità immense, però ci manca un po' quel libretto di istruzioni, quell'insieme di strategie che ci servono proprio per riuscire ad utilizzare al meglio le risorse che abbiamo, perché il presupposto di base dell'apprendimento è che la nostra memoria è perfetta, è veramente perfetta, ci manca solo appunto quel libretto, quella strategia. Quindi, è come se la nostra memoria conoscesse bene quello che deve fare, solo ci manca il libretto di istruzioni. A dopo andremo a vedere il libretto delle istruzioni. Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene. E una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi e innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora di più, oh, di più, oh, di più. Abbiamo confidenza con i demoni interiori, sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia. pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene. E una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi e innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora di più. Pioggia, vento, sangue nelle vene. Vuole pioggia, vento e sangue nelle vene e una ragione per vivere e per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi e ogni giorno e ogni ora innamorarmi di più, sempre di più. Oggi vorrei salutare tre persone che hanno sicuramente sangue nelle vene: Aneta Bordanek, Marta Tempesta e Alberto Pavan, soprattutto ad Alberto, forza rugby di Rovigo. Ritorniamo in studio con Nicoletta Todesco, trainer internazionale di tecniche di memoria e concentrazione. Abbiamo subito per Nicoletta una domanda che va al nocciolo della questione. Nicoletta, curiosando, sì? Ho visto che hai scritto vari libri, puoi raccontarci qualcosa? Sì, beh, finora libri sulla memoria non ancora, ho scritto dei libri perché mi occupo anche non solo di apprendimento ma anche di coaching, di comunicazione, di come si può dire, public speaking, leadership. Sì. Il mio primo libro è stato Trasformazione, Trasformazione, ho scritto proprio così, il titolo è molto molto semplice e immediato. Sono storie di vita che ho raccolto in questi anni da alcuni miei allievi, un po' travagliate, perché penso che ognuno di noi abbia dei momenti di crash nel quotidiano, nella vita. E anche qui, se io so come fare, se ho gli strumenti giusti, se ho le risorse giuste, posso fare quel passo oltre le difficoltà e stare meglio accogliendole e imparando che non c'è nessun fallimento se imparo dalle cose. Quindi questo è un libro. Poi a breve uscirà un cofanetto sulla lettura veloce, quindi sono dei DVD e un libro sulla lettura veloce, si chiama proprio Lettura Veloce, perché pensa Giovanni, quante volte ti succede di iniziare a leggere un libro, arrivare in fondo e dire boh, cosa l'ho letto? Perché la mente è veloce, l'occhio è lento, e quindi cosa succede? Ci si distrae, un po' come se si andasse a 20 all'ora in autostrada, si perde l'attenzione e si rischia di più, per assurdo. Poi un'altra pubblicazione, sempre che uscirà in primavera, è PNL per tutti, sono dei DVD e un libro sulla programmazione neurolinguistica, sono strategie di comunicazione, certo. Come riuscire a essere più impattanti, più comunicativi, più efficaci. Più efficaci, sì, perché anche qua troppo spesso le persone parlano e non comunicano, e quindi si entra in errori, in fraintendimenti, nei non detti, che sono dei debiti usurai che portano veramente le persone a volte ad arroccarsi in posizioni, a perdere magari tempo e energia nei musi duri, cosa che non ha molto senso. Infatti, per me che sono uno smemorato e che lavoro in radio, è importantissimo anche in radio avere un ottimo ricordo, insomma, di quello che fai, delle persone. Cosa mi potresti consigliare? Guarda, ti dico due o tre presupposti della memoria. La prima cosa è che, appunto, essendo perfetta, ci manca libertà di istruzione. Ma perché non ricordiamo? Perché immagina questo, la memoria è come un magazzino, un archivio, un deposito dove andiamo ogni giorno a mettere tante tante informazioni. Il problema non sta nell'inserirle, il problema sta nel recuperarle. Pensa quante volte l'informazione giusta ti arriva al momento sbagliato, quando ormai non ti serve più. proprio perché è come se in una casa ci fossero tutti gli oggetti contenuti nella casa in disordine, non avrebbe senso. Se ti chiedo un bicchiere d'acqua, tu non hai problemi, penso, a dirmi dove andarmelo a prendere da sola a casa tua, giusto? Esatto. Quindi perché è come se è come, una collocazione. Infatti, è come se io avessi il potere, diciamo così, poi non so se mi sbaglio, di riordinare le mie memorie, come se ci fossero dei cassetti, ho capito bene? Bravissimo, bravissimo. Allora, un corso di memoria ti insegna proprio e ti crea proprio dei cassetti mentali. Poi magari ti spiego anche la tecnica che utilizzava Cicerone, perché non so se bellissimo, sai perché infatti si dice in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo. Proprio perché deriva da delle tecniche di memoria. Sì. Questo è il primo presupposto. Il secondo presupposto è che noi purtroppo usiamo di più la memoria uditiva rispetto a quella visiva. Ti faccio un esempio. Ti è mai successo di ritrovare una persona per strada e avere la sensazione di aver già visto quel volto e di aver già conosciuto quella persona? Sì, però quello che non ricordi è il nome. Non so se ti è successo una cosa di questo tipo. Di solito è un esempio certo abbastanza comune. A me sì, sicuramente. Sì, lo so, sì, a Daniele. A te. Provo a raccontare, Daniele, cosa vedo, ne pensi vedo dell'argomento. Vedo parecchie persone, anche un po' per quello che faccio, e a volte davvero succede proprio che guardo un volto e dico: ma questa persona dove l'ho vista? Dove l'ho vista? Ed è come rovistare appunto su un archivio e non trovi il file e dici dov'è, dov'è? Sai perché, Daniele, succede? Perché la memoria visiva, hanno fatto tantissimi studi sulle neuroscienze sul funzionamento del cervello, la memoria visiva si dice che sia l'82% della nostra capacità di apprendimento. 82% pensa? L'82, sì. Quando dobbiamo imparare qualcosa, che sia qualcosa che leggiamo, che sia un numero di telefono, il nome di una persona, ahimè si utilizza classicamente la memoria uditiva, che è il 18%. Vi faccio un esempio, scegliete voi Giovanni, Daniele, chi di voi è uguale, uno di voi due, mi potete dire un numero di telefono che conoscete benissimo, per cortesia, senza il prefisso, ditemi un numero che conoscete molto molto bene. Vai Daniele, che numero conosci molto molto bene? Prova a dire il tuo. Il mio numero di telefono, sì, il cellulare. Senza prefisso, così non ti chiamano sì tutti, dimmi pure il 4, numero, Daniele. 422 3775. Me lo puoi dire a cifre di due? Raggruppato a due? 42. Scrivi, Daniele. No, non scriverlo, dillo. Dillo, vai. Non vale scriverlo. 42. Sì. Vedi che c'è difficoltà. Sì, vero. Infatti. Quante volte voi, magari al telefono, date il vostro numero di telefono a qualcuno? Quel infatti qualcuno ve lo ripete in modo diverso, raggruppato in modo diverso rispetto a come gliel'avete detto, e cadete in tilt, non riuscite più a riconoscere. E andiamo numero in tilt, è certo. Sì, pensate infatti anche all'alfabeto, dalla A alla Z lo so dire, dalla Z alla A ho più difficoltà. Infatti, giusto? infatti. Sì, credo che sia Nicoletta. Proprio perché siamo vincolati alla cantilena mentale. Purtroppo, quando noi impariamo, è una cantilena, esatto, utilizziamo una cantilena. Però è come dire che nel 2014 per andare negli Stati Uniti usiamo le caravelle di Colombo. Infatti, è come se ci mancasse la metodologia appropriata, la metodologia certo giusta. E ritorneremo tra pochi minuti e ci ascoltiamo una bellissima musica che richiama appunto il tema della memoria, Gocce di memoria. A dopo. Con il gelo nella mente sto correndo verso te. voce di un passato che non può più tornare. Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile. Racconterò di te, inventerò per te quello che non abbiamo. Le promesse sono infrante come pioggia su di noi. Le parole sono stanche, lo so che tu mi ascolterai. Ritrovati e benvenuti di nuovo a Tensione Evolutiva 3.0 presso Blu Radio Veneto. In diretta abbiamo una trainer straordinaria, Nicoletta Todesco, e stiamo parlando di tecniche di memoria. Anzi, più che parlando, Nicoletta ci sta facendo un po' di tecniche molto molto interessanti anche per radio. Meravigliosa questa cosa. E Daniele, che è qui con me, anzi Don Lupin, perché Nicoletta, abbiamo un sacerdote che ha un nome che è tutto un programma. Sì. Vatti a vedere. Si ricorda facilmente, dai. Si ricorda no? Facilmente, sì, perché ricorda i cartoni animati visivo. Compisce l'attenzione, certo. E lui proprio adesso ha una domanda molto, molto interessante da farti. Parto dal formaggio e ti spiego il perché. E a volte i miei amici dico che la mia testa è un po' come l'Emmental, è piena di buchi. Io uso il termine scolapasta, sai? Scolapasta. Dico, le nostre memorie come uno scolapasta. Fantastico, fantastico. Allora, sento che sei molto preparata e volevo chiederti, ma questi buchi di memoria da dove nascono? Ti rispondo subito, Daniele. Allora, guarda, ci sono sempre più concause, non c'è mai una causa unica. Diciamo che molto spesso, purtroppo, quando noi ascoltiamo, impariamo qualcosa, non siamo concentrati, non siamo nel qui e ora. Pensa quando una persona ti si presenta, visto che prima si faceva l'esempio del nome, quando una persona si presenta siamo talmente nel nostro mondo attenti magari a cosa dobbiamo dire a questa persona o attenti a quello che questa persona ci vuole dire, che il nome neanche lo ascoltiamo. Invece non so se ti succede che ti si presenta una persona che si chiama come un fratello, una sorella, una mamma, uno zio, un parente, e cosa succede in modo automatico e naturale? Noi associamo. Infatti, per evitare i buchi, la memoria gruviera, la cosa ideale è associare, perché l'apprendimento, una delle dei presupposti base della memoria e dell'apprendimento è questo. L'apprendimento avviene quando associo una cosa che non conosco a qualcosa che già conosco. Cosa vuol dire? Sai i buchi di cui mi parlavi? Non so se ti succede, Daniele, di mentre stai facendo qualcosa dire ah, mi devo ricordare di prendere quella cosa. Allora, vi spiego una tecnica che usava Cicerone. Intanto vi faccio una domanda a tutti e due e anche a chi ci ascolta a casa. Certo. Avete presente la frase in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo? Si dice solitamente, sì. È un modo di dire. Sapete perché? Io la so la risposta, vai Daniele. Sono curioso invece. Sai perché si dice in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo? Ma forse lui immaginava di porla in un determinato posto. Bravissimo. Bravo, ti faccio un esempio. Fantastico. Cicerone, cosa, guarda, su 100 persone di solito alle conferenze non mi sa rispondere mai nessuno. Sono hai trovato due persone preparate. Giovanni, tu un pochino di formazione ce ne intendi, certo. Quindi da te non potevo che aspettarmi questo. A me piace allora, l'immaginazione, allora forse per quello. Ecco, perfetto. Sai cosa faceva Cicerone, Daniele? Ti faccio un esempio. Se ti hanno detto che l'apprendimento avviene quando associo una cosa che non conosco a qualcosa che già conosco, ti chiedo, se io ti chiedessi un percorso che tu fai quotidianamente, che ne so, da casa al centro del paese, da qualsiasi percorso, una strada, tu sapresti, Daniele, darmi riferimenti del tipo, ti faccio un esempio mio, della mia casa d'infanzia, c'era la mia casa, il cancello, il distributore di benzina, un baretto, un incrocio, una chiesetta. Sapresti darmi dei riferimenti così di un percorso che conoscete molto bene? Sì, certo. Non c'è difficoltà nel farlo, giusto? No, assolutamente. Ok, allora, cosa faceva Cicerone? Vi faccio un esempio. Sono in Senato e devo parlare di... Ditemi un argomento qualsiasi. Di voce. Di voce, beh, Giovanni, una tecnica di dizione di voce, ok. Ok, visto che tu te le occupi, bene. Voce, a me viene in mente Frank Sinatra, che veniva chiamato The Voice, giusto? Beh, certo, vabbè. Allora, il mio primo punto del percorso è il cancello di casa. Cos'è che faccio? Mi visualizzo che sto uscendo da casa e mi vedo fuori dal cancello che c'è appunto Frank Sinatra. Poi devo ricordarmi di parlare, ormai ahimè tutti mi dicono di tasse, allora mi viene in mente, dopo il cancello ho il distributore di benzina e mi visualizzo che anziché il benzinaio farmi benzina me la fa un tasso. Così quando poi sono alla conferenza, in questo caso si parlava di Cicerone quindi in Senato, basta che io ripensi ai punti del mio percorso e mi viene in mente quello che devo trattare. Questa è una cosa bella perché utilizza entrambi gli emisferi cerebrali, nel senso che il nostro cervello è diviso in due parti. L'emisfero sinistro, che è quello più razionale, più calcolatore, dove c'è il linguaggio, la logica, la matematica, il calcolo, la realtà. E quindi il percorso è qualcosa che va a toccare l'emisfero sinistro, perché è qualcosa che conosco. Il percorso è una cosa razionale, qualcosa che esiste. È razionale, sì. Invece, perché i bambini ricordano tantissimo? Perché giocano, si divertono, storpiano le cose. Dario, dove Dario? Chiamano un po' così. Infatti. Per dire. E quindi il vedere Frank Sinatra fuori dal cancello va ad utilizzare la parte più creativa, più immaginativa, più giocosa. Più divertente. Che è l'emisfero destro. Perché purtroppo quando noi impariamo, se pensate alle percentuali che vi ho riportato prima, il 18 e l'82%, è come se usassimo su due braccia, due gambe e un braccio solo. La cosa bella di una tecnica di memoria è che ti fa usare e, non è o, ti fa usare la parte più immaginativa e la parte più razionale, quindi è l'unione di tutte le risorse che abbiamo all'interno. E diventa anche molto leggero, divertente. Perché purtroppo noi spesso associamo il fatto di dover ricordare, di dover imparare a una cosa faticosa. Certo, sarebbe faticoso per me arrivare negli Stati Uniti con la caravella di Colombo. Eh sì, per forza. Se c'è l'aereo, perché non utilizzarlo? Infatti. Sì, noi siamo rimasti un po' indietro in questo. Infatti, è come se avessimo l'opportunità, tramite i tuoi corsi, Nicoletta, di prendere uno dei più potenti aerei che c'è sulla Terra. Ti voglio fare una domanda secca. Quali sono, visto che abbiamo parlato di bambini, quali sono le cose che ti divertono a te come persona? Ti può sembrare assurdo, però fare quello, cioè, per me il mio lavoro non sarà mai un lavoro, una passione. Mi diverte, è una passione, tantissimo. Infatti. Mi diverte quello, mi diverte leggere, mi diverte viaggiare. Zaino in spalla, però, perché ho voglia di conoscere le culture e le persone. A me piace entrare proprio nell'intimo, cioè, poi per carità, anche l'ultima settimana magari in hotel tranquilla, spaparanzata, a rilassarmi, a rilassarti, sì. Però amo l'avventura, amo viaggiare, amo il mio lavoro. Ami il tuo, il tuo lavoro, e me ne ero accorto. Amo vedere la luce negli occhi delle persone quando capiscono, infatti. Sai cos'è? Sono cose concrete, sono corsi concreti. Guarda, ho finito proprio ieri un corso a Montegrotto, non di memoria, Montegrotto Terme, ma sulla comunicazione, sì. E avevo persone che arrivavano da Lugano, da Roma, da Napoli. E poi stanotte, perché abbiamo finito tardino, mi sono arrivati un sacco di messaggi. Cioè, sapere che comunque lasci un segno, le persone poi sono contente. Ti parlo di memoria, ad esempio, in questo momento ho genitori che hanno fatto il corso 15 anni fa, mi portano i figli appena ne compiono 8-9. Bellissimo. E ti dà l'idea che lasci un segno, quindi come fai a non appassionarti a questo? Infatti, ritorniamo tra qualche minuto e parliamo di memoria e bambini. Alla prossima, a dopo. Star. You pick me up from above, your unconditional love takes me to paradise. I belong to you, and you belong to me too. You make my life complete. So sweet. Tensione evolutiva. Ben ritrovati. È nata qui tra di noi una discussione molto... un confronto, insomma. E prima di andare a trattare di tecniche di memoria ai bimbi, che sono le nostre future generazioni, volevamo chiederti, c'è differenza tra la memoria maschile e la memoria femminile? Perché a noi non quadrano certe cose. Sai cos'è? Cioè, ad esempio, pensa anche solo nel, se tu chiedi le indicazioni stradali a un uomo o una donna, l'uomo ti dà dei riferimenti più spaziali, più spazio-temporali, vai avanti di 100 metri, poi giri a sinistra. Invece la donna ti dice, vedi, trovi quel negozio, poi c'è quel palazzo, poi trovi... Quindi abbiamo dei modi di approcciarci diversi. Diciamo che si dice che tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro l'organo di connessione al corpo calloso, corpo non voglio entrare in termini troppo tecnici, altrimenti perdiamo le persone, però la donna usa di più l'emisfero destro, che è quello più emozionale, l'uomo un pochino più razionale, ma proprio per cultura, sai, non necessariamente per un motivo neurofisiologico, per cultura. Poi è logico che se si utilizza di più un muscolo rispetto ad un altro, anche la parte fisica va a impattare in questo senso. Infatti, l'uomo è più razionale, la donna è un pochino più emozionale, ripeto, è un condizionamento che abbiamo avuto fin da bambini. È un condizionamento, sì, perché onestamente. Io che vengo dal mondo del teatro, noi nel mondo del teatro alleniamo tantissimo la parte emozionale, per esempio, e ho visto che a me è servito molto. Certo, infatti. Si parla di intelligenza emozionale anche emozionale, certo. Io questi corsi li tengo agli MBA, sono i Master Business Administration, cioè li tengo Lavoro tantissimo in Svizzera con le università, per non tanto per i ragazzi universitari, lì mi arrivano in modo privato i corsi, ma per i master, quindi per le persone, sì. Sì, sai, per i manager che sono stressatissimi, hanno 3597 cose da ricordare, famiglia, moglie, lavoro, e mi vanno in burnout. Conto in banca. Numeri del conto quello. In banca, numeri del codice postale. Incredibile. Però sai, una volta è venuta una vecchietta a fare un corso perché le era stato ingurgitato 6 volte il banco, ma perché sbagliava sempre il PIN. Perché poi noi non ci rendiamo conto di quante volte ci stressiamo perché abbiamo dei cali di memoria. Il non ricordare, non so, un numero, il non ricordare una cosa che leggo, diventa frustrante. E poi la cosa brutta che succede all'interno della nostra mente è che iniziamo a dire: ah, allora non sono in grado. Ma mi parlavi dei bambini, sai quanti bambini mi arrivano? I bimbi purtroppo a scuola si annoiano. E lo so che a volte gli insegnanti si arrabbiano con me quando dico questo, e vi dico che tengo regolarmente corsi ad insegnanti, corsi nelle scuole. C'è una scuola in Svizzera che addirittura ha organizzato, ha fatto il corso tutti gli insegnanti, tutta la scuola, e stanno continuando ad andare avanti col progetto memoria. Gli insegnanti stessi ora, con la mia supervisione, insegnano le tecniche ai ragazzi, e hanno fatto le Olimpiadi della memoria, perché pensate, un bambino adesso è sovrastimolato, nel senso che ha internet, la TV, i videogames, la Wii, che ne so, l'iPad, il cellulare, qualche volta la radio, se sono adolescenti qualche volta la radio, sì, anche quella. Però vado a scuola e se ci pensate, la didattica scolastica in me è rimasta quella che più o meno, logicamente qualcosa cambia per fortuna, però quella che utilizzavano i nostri nonni, il metodo di studio è come quello dei nostri nonni. Poi per forza i ragazzini hanno difficoltà, perché i ragazzini adesso sono iperattivi. È come dire, tornando all'esempio di prima, che a scuola gli insegnano a remare, mentre adesso c'è bisogno di andare in macchina, poi posso anche remare, però posso poter scegliere. Invece se ho solo una strategia non ho la possibilità di scelta. I ragazzi si annoiano perché sono veloci e i metodi di apprendimento scolastici sono lenti. Quindi infatti, si distraggono tantissimo. Don Daniele qui ha una grossa esperienza con i ragazzi, puoi testimoniare questa cosa o no? Sì, anche se Nicoletta, volevo farti una domanda a proposito di scuola, prego. Le poesie, sì. Io facevo una fatica a ricordare le poesie, come mai? Perché anche lì, mi ricordi quello che abbiamo detto prima Daniele, il discorso della memoria uditiva, dover ripetere. La ripetizione è una piccola parte. Invece la tecnica di memoria, che usa la memoria visiva, mentre nella memoria uditiva gli ingredienti principi è la ripetizione, e qui il modo di imparare una poesia, la memoria visiva ha 3 ingredienti principi, che sono pensa alla pubblicità. La pubblicità mai ti decanta la qualità di un prodotto, se ci pensate. Vi vogliono vendere qualcosa, non è che ti decantano la lavabilità di una stoffa, la stirabilità, che ne so, la resistenza di un vestito. Vi fanno vedere il bel ragazzo, la bella ragazza con quell'abito. Perché più una cosa impatta a livello emozionale. Più si ricorda. Perché se io vi dovessi chiedere, non voglio entrare nel vostro intimo, ma cosa vi ricordate dell'anno scorso, mi direste certamente qualcosa che vi ha colpito a livello emozionale. Perché gli ingredienti della memoria visiva sono 3 gli ingredienti principi: le emozioni, le immagini e le associazioni. Noi quando ricordiamo in modo naturale associando, perché le tecniche di memoria sono nate studiando persone che in modo naturale avevano un'ottima capacità di ricordare, e studiando il cervello, il funzionamento del cervello. E sapete cos'è? Che è una cosa semplice, talmente semplice che le persone si stupiscono, perché non è vero che dobbiamo far tanta fatica per ottenere grandi cose. A volte basta avere lo strumento giusto e la motivazione giusta. Strumento giusto e motivazione giusta ovviamente possono portare a grandi risultati, e ne stiamo proprio trattando in Tensione Evolutiva 3.0. Nicoletta, mi veniva in mente, mentre parlando sì, appunto di allenamento, se potevi dirmi qualcosa riguardo la tecnica che a volte qualcuno mi ha raccontato di imparare a memorizzare ascoltandolo durante il sonno. Ma è una tecnica efficace? Io personalmente preferisco una tecnica in cui sono attiva e interattiva. Comunque, ecco perché durante il sonno si ricorda di più. Diciamo che durante i corsi ci insegna proprio un metodo per rilassarsi e concentrarsi. per entrare nella fase alfa. Il cervello ha quattro fasi. Se tu guardi un elettroencefalogramma vedi proprio che ci sono onde cerebrali diverse, non so se sei presente, certo, a seconda sì, del sì. tipo di fase in cui noi siamo. Allora, purtroppo noi quando impariamo e ascoltiamo le cose, le ascoltiamo in fase beta. Adesso siamo in fase beta. La fase beta è come dire, io semino in un terreno secco, che non sì. è né arato né concimato né dissodato né innaffiato. C'è una tecnica banalissima, giocosissima per entrare in fase sì, alfa. Sì. Basta visualizzare i colori dell'arcobaleno. Visualizzare i colori. Rosso, sì, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco che è un po' la melanzana e il viola. Per ricordare i colori, sai cosa faccio ai corsi, Giovanni? Faccio visualizzare i colori all'interno della stanza. All'interno della stanza, il primo punto sì. della stanza lo visualizzo con delle fragole rosse, il secondo punto della stanza visualizzo che ci sono delle arance. Delle arance, e quindi sì. invito chi è a casa a provare a fare questa cosa. Proprio con i colori, visualizzare ogni singolo colore in un punto della stanza. Così uniamo anche qua ancora una volta l'emisfero destro creativo con l'emisfero sinistro. Quindi associando un po' i associando. Colori, associando un po' le varie, certo. le varie fasi, possiamo andare a vedere, proprio a intuire, a sentire e ad applicare queste bellissime tecniche di cui abbiamo parlato oggi. E per concludere, dove fai i tuoi corsi, Nicoletta? Guarda, li tengo adesso proprio questa settimana delle serate a Schio, a Tiene. Li tengo sì. a Montebelluna, li tengo a Treviso, li tengo a Oderzo, diciamo tutto il Veneto e tutto il Veneto, Ticino. Sì. I miei due poli sono Veneto e Ticino. Quindi Veneto e Ticino, e basta andare sul tuo sito. Quindi andate sì. sul sito di Nicoletta Todesco. Abbiamo parlato oggi di tecniche di memoria, sì. Vai col sito, Nicoletta. È www.brainapp, come cervello su in inglese, Bologna, Roma, Ancona, Imola, Napoli, Udine, Palermo.it. Benissimo, brainapp.it. E io intanto vogliono approfondire, c'hanno un sacco di video su internet, trovano di tutto con mio nome e cognome. Benissimo, troveranno sicuramente di tutto. E intanto Giovanni Garavello vi saluta. Don Daniele, ricordandovi che potete poi ascoltare il podcast sul sito della nostra radio e potrete trovarci anche su Facebook e Twitter cercando Tensione Evolutiva. E salutiamo anche Nicoletta Todesco. Ciao Nicoletta, alla prossima! Ciao, grazie, buona giornata a te, tutti! A te, ciao e buona memoria! Ciao, ciao! Grazie, buona memoria anche a voi! Ciao, ciao, ciao! Tensione evolutiva, tensione evolutiva, tensione evolutiva.